Crosby, Stills, Nash & Young, mitico gruppo che interpreta Ohio. Ohio, lo stato del castagno, e devo dire il campo di battaglia più difficile. L'Ohio è lo stato chiave per le elezioni presidenziali, ma anche per le primarie, la battaglia soprattutto fra Romney e Santorum. Devo dire che sta tornando fuori anche un po' Gingrich, e dunque alla fine questo avvantaggerà Romney, perché Santorum e Gingrich torneranno a spartirsi i voti. Perché l'Ohio è così importante? Beh, intanto è il settimo stato più popolato d'America, ma poi soprattutto è uno stato che esprime tutte le diversità americane, perché ha un sud della vecchia Rust Belt industriale, l'ovest molto Midwest, molto pianure agricole, il nord i servizi, e dunque rappresenta umori molto diversi. Pronostico: battaglia dura fra Romney e Santorum. Santorum si trova in vantaggio nei sondaggi, ma il campo è aperto. And fight and shout and fight and shout for free America. Una ballata rivoluzionaria. Il Massachusetts, lo stato di Mitt Romney, dovrebbe vincerlo senza nessuna difficoltà. Uno stato molto vicino a noi, è uno degli stati più antichi degli Stati Uniti d'America. Beh, è qui che è nata la rivoluzione. La rivoluzione proprio con il movimento del Tea Party, cioè la rivoluzione per la tassa sul tè che fu imposta dagli inglesi, e da lì partì la grande rivoluzione americana. È una delle prime colonie, vi dicevo, fu fondata dai padri pellegrini nel 1620, Harvard, la più grande università del mondo, fondata nel 1636, la più antica degli Stati Uniti. Soprattutto il Massachusetts ha dato i natali a John Kennedy e a tutta la dinastia dei Kennedy. Apro una parentesi su questo, perché Kennedy è cattolico, Santorum è cattolico, eppure Santorum si è rivelato, c'è stato un articolo molto bello sul New York Times di ieri che dava questo spaccato di Santorum, un cattolico integralista, papista, decisamente legato alle vecchie tradizioni, va ad ascoltare la messa in latino in una piccola parrocchia in Virginia. Perché vi parlo di questo aspetto religioso? Perché Santorum cattolico ha attaccato Kennedy cattolico, ha detto: quel cattolicesimo è un cattolicesimo superficiale, non lo condivido, e soprattutto, e devo dire, è andato un po' in là, e questo gli alienerà secondo me molti voti. A un certo punto ha detto che la posizione di Kennedy sulla separazione fra Stato e Chiesa lo ha fatto vomitare. Massachusetts pronostico è di Romney.